Era tanto previdente, la zia Mary, che prima di morire aveva comprato il bauletto di legno profumato dove avrebbero dovuto conservare le sue ceneri. Ed eccolo lì, al centro del salone, dove tutti quelli che le avevano voluto bene si erano riuniti per ricordarla. La zia Mary aveva un'amica del cuore, un'amica con cui parlava dei suoi dispiaceri e delle sue gioie, con cui divideva vari segreti e un mucchio di ricordi. Un'amica che rimase seduta accanto al cofanetto senza parlare con nessuno per tutto il giorno e tutta la notte che durò la veglia funebre. All'alba si alzò piano e si diresse verso il cofanetto. Poi tirò fuori dalla borsa un vasetto e un cucchiaio, sollevò il coperchio e prese due cucchiaiate di cenere che mise nel vasetto. Fece tutto con tale discrezione che i presenti in sala pensarono si fosse avvicinata per pregare. Fu scoperta soltanto da un paio di occhi. Vedendoli spalancarsi per la sorpresa, spiegò alla loro padrona. Non ti spaventare, le disse, ho il suo permesso. Sapeva che mi avrebbe fatto bene tenere un poco del suo aroma nella cassetta dove conservo le ceneri degli altri. Quando posso, mi porto sempre via un poco degli esseri che continuerò ad amare dopo morta e lo mescolo con gli altri. Fu lei a regalarmi la cassetta intarsiata in cui li conservo tutti. Quando morirò, mi metteranno lì dentro e mi confonderò con loro. Dopo ci possono seppellire o disperdere nell'aria, ma insieme. Arrivata a 103 anni, Rebecca Pathy Puente aveva avuto una sola malattia, quella che sin dall'inizio sembra l'ultima. Le rimanevano 5 figli dei 13 che aveva partorito fra i 17 e i 30 anni. Aveva sepolto suo marito quasi mezzo secolo prima e al suo capezzale si avvicendavano 72 nipoti. Da 6 mesi era tanto grave che ogni sera si diceva che non sarebbe arrivata al mattino. Ogni mattina che sarebbe morta verso le 4 del pomeriggio e ogni pomeriggio che sarebbe stato un miracolo se fosse arrivata a mezzanotte. Della vecchia sorridente e piena di capelli che era stata, non rimaneva che il pallido involucro di uno scheletro. Era stata bella come nessun'altra donna dell'epoca di Juarez, ma di questo nessuno aveva memoria, perché tutti i suoi contemporanei erano morti prima della rivoluzione contro Porfirio Díaz. Così il profumo del suo corpo generoso, lei sola poteva ricordarlo. Tutti i giorni e con la stessa forza che durante l'assedio alla città la spinse fuori di casa a sparare dalla sera alla mattina fino alla resa. Respirava 10 volte al minuto e sembrava se ne fosse ormai andata da settimane. Tuttavia, si aggrappava alla vita come se temesse qualcosa peggiore della morte. Di tanto in tanto i figli le parlavano all'orecchio, cercando la sua testa ristretta in mezzo a una chioma bianca ogni giorno più abbondante. «Perché non riposi, mamma?» le domandavano esausti e impietositi. «Che cosa vuoi? Che cosa aspetti allora?» Non rispondeva. Posava lo sguardo sulle vetrate colorate di un balcone di fronte al suo letto e sorrideva, come se con le sue parole temesse di ferire. Tra i suoi nipoti c'era una donna che ogni pomeriggio si sedeva accanto a lei e le raccontava le sue pene, come parlando tra sé. «Ormai non mi senti più, nonna, meglio così, per ascoltare tristezze. Fai bene a essere sorda. Come mi senti?» A volte sono sicura che mi senti. Ti ho già detto che se n'è andato, te l'ho già detto. Però per me è come se ci fosse ancora, perché non riesco a liberarmi di lui. È vero che tu hai perduto un amore in guerra? Così mi sarebbe piaciuto che me l'avessero ucciso prima che lui decidesse di uccidere me. Al posto di quest'odio avrei l'orgoglio di aver vissuto con un eroe. Perché il tuo amore era un eroe, vero? Nonna. Come hai potuto vivere tanto a lungo dopo averlo perduto? E a quale scopo continuare a vivere dopo che ti hanno ammazzato il tuo uomo, dopo che il nonno ti ha portato a casa a botte dal luogo in cui lui morì dissanguato? Te l'avevano fatto sposare per forza il nonno, vero? Perché non te l'ho domandato prima, te, tanto eloquente, tanto bella? Ormai è inutile. Non saprò mai se erano veri i pettegolezzi che si raccontano su di te. Se davvero abbandonasti tutta la famiglia per seguire un generale juarista, se fu un francese ad ammazzarlo, o tuo marito poco prima che finisse l'assedio. La nonna non rispondeva. Si concentrava sulla respirazione e respirava tra sospiri lunghi e disordinati. Il vescovo era venuto 2 volte a confessarla e 4 a darle l'estrema unzione, finché a furia di vedere agonizzare i suoi discendenti, si abituarono a vivere con la nonna moribonda. Sta migliorando, diceva sua nipote. Lei era terrorizzata all'idea che la nonna morisse. Sarebbe rimasta senza confidente. E quando manca l'amore, l'unica cura sono le confidenze. Ah, nonna, le disse un pomeriggio, ho il corpo prosciugato. Asciutti gli occhi, asciutta la bocca, asciutto l'interno delle cosce. Per vivere a questo modo, meglio sarebbe morire. Stupida, disse la vecchia, rompendo un anno di silenzio. Non sai di che parli. La sua voce sembrava venire da un altro mondo. Tu conosci la morte, nonna? Tu la conosci, vero? Per tutta risposta, donna Rebecca si perse in soffi e respiri torbidi. Perché lotti ancora, nonna? Perché non sei morta? Vuoi il tuo reliquario? Vuoi cambiare il testamento? Cosa hai in sospeso? La vecchia mosse una mano facendole cenno di avvicinarsi e la nipote avvicinò un orecchio alla sua bocca balbettante. Che cosa c'è? Le chiese, accarezzandola. La nonna rimase un po' così a sentire la mano di sua nipote andare e venire sulla sua testa, sulle guance, sulle spalle. Infine disse con la sua voce rotta. Non voglio essere sepolta con quell'uomo. Mezz'ora più tardi, i figli di donna Rebecca, Pat e Puente, le promisero che l'avrebbero sepolta come desiderava, in una tomba tutta per lei. Me ne vado lasciando un debito, disse sua nipote prima di morire per l'ultima volta. Il giorno seguente, la sua influenza celestiale fece tornare il marito perduto della nipote. L'uomo entrò in casa con una valanga di rose, una litania di scuse, giuramenti di amore eterno, elegie e preghiere. Ne avevano detto tutti, che sua moglie era ridotta a uno straccio, che gli occhiali arrivavano alla bocca e che i seni le si erano consumati in lacrime, che da tempo piangere aveva occhi di pesce e da tanto soffrire era diventata magra come un cane randagio. Vide una donna sottile e luminosa come una candela, con gli occhi più tristi ma vivi che mai, che gli venne incontro con un sorriso come un sortilegio e il portamento di una regina. Lo guardò come se non avessero fatto 4 figli insieme e gli disse: Chi ti ha invitato a un funerale? Prendi i tuoi fiori e vattene. Io non voglio essere sepolta con te. Il marito di Laura Guzman era contento che la sua camera da letto desse sulla strada. Era un uomo abitudinario e puntuale, si addormentava poco dopo le 9 e si alzava poco prima delle 6. Bastava che appoggiasse la testa sul cuscino perché il suo inconscio ammutolisse per tutta la notte. Se di qualcosa si vantava quest'uomo, era di non affaticare la sua già tanto occupata zucca con la sfrenatezza dei sogni. In vita sua non aveva mai sognato ed era certo che mai in vita sua avrebbe avuto tale insana sorpresa. Si svegliava poco prima delle 6, si girava verso la sveglia svizzera che tutte le sere puntava con precisione. Ti ho battuto di nuovo, le diceva, orgoglioso del meccanismo interiore che sua madre gli aveva installato nel corpo. Si udiva allora il fischio dell'uomo che consegnava il giornale, la scopa dello spazzino sul marciapiede, i saluti di 2 operai diretti alla fabbrica di Maio Rasgo. Il vocio delle comari che andavano a comprare le tortillas, le grida con cui la dirimpettaia mandava i figli a scuola e il passaggio delle prime automobili. Tutto questo svegliava Laura Guzman dalla sua recente agonia, facendole inevitabilmente rimpiangere tutti i sogni che le mancavano ancora prima delle 11 del mattino. Al contrario di suo marito, era un insonne di professione. Le piaceva darsi da fare quando la casa era finalmente tranquilla, andare e venire dalla cantina alla cucina alla stanza da lavoro e da lì alla dispensa, dove tutte le notti scriveva un minuzioso diario di quel che le accadeva nella vita. Aveva portato nella dispensa una serie di quaderni che riponeva insieme ai libri di cucina al termine del rito serale. Poteva quindi tagliarsi le unghie, spazzolarsi i capelli, ascoltare a basso volume un disco di canzonette che suo marito aveva proibito in casa sua, verificare che ognuno dei bambini fosse ben coperto nel suo letto, sedersi a controllare che non passassero topi dalla cucina alla sala da pranzo, uscire nel patio a fare un bagno di luna, rimuginare raggomitolata nella sua poltrona insieme al gatto. L'importante era andare a letto tardi, mai prima delle 3 del mattino, sfruttare al massimo momenti di solitudine che le regalava la notte. Naturalmente, alle 6 del mattino era uno straccio a cui mancavano quasi 4 ore di sonno per trasformarsi in una moglie. Alle 7 però non era più possibile continuare a dormire. Lei allora giurava su tutti i santi del paradiso che d'ora in poi sarebbe sempre andata a letto prima delle 9 e nascondeva la testa sotto il cuscino cercando di riprendersi contando fino a 60. Tuttavia neppure quel minuto era di pace. Fuori la guerra era cominciata alle 5 del mattino e non c'era Dio in grado di fermarla. Molte volte l'aveva seguita sin dal primo rumore. 1 o 2 ore dopo essere andata a dormire, si svegliava, ricordandosi di non aver scritto qualche sogno il giorno prima, e non si riaddormentava fino a mezzogiorno passato, rossa come un gambero sotto il sole del suo rifugio in terrazza. In camera da letto, mai. La camera sembrava un mercato tutto il giorno. Tutto quel che passava per strada passava sopra il suo letto. Qualunque cosa. Auto, cane, bambino, venditore ubriaco, tutti a gridare sul suo cuscino. E questo lo sapeva solo lei, perché solo lei aveva tentato invano di dormire in quella stanza durante il giorno. In compenso aveva appreso il vocabolario alternativo che non le avevano insegnato né a casa né a scuola, che non usava né suo marito, né i suoi genitori, né le amiche, né nessun'altra delle persone tra cui viveva. Un vocabolario che imparò a utilizzare in modo tanto corretto da dare alle sue notazioni notturne un tono audace e liberatorio. In quel linguaggio gli stupidi si chiamavano coglioni e già per questo erano più stupidi, così come erano più cattivi gli stronzi e ancora di più i figli di puttana. Non era fatto solo di parole quel linguaggio, ma anche di toni. Lei viveva in un mondo in cui le peggiori offese si pronunciavano senza alzare la voce e per questo parevano meno gravi. Per strada, invece, qualsiasi cosa poteva suonare insolente, perfino il nome di colui che non doveva essere nominato invano. Laura aveva nei timpani il grido acuto di un ubriaco all'alba che non poteva scordare. Ah, Dio! La voce di quell'uomo le si era infilata tra sogno e sogno come il più terribile degli incubi. Era una voce stridula, disperata e furibonda. La voce di un infelice stanco di esserlo, che quando invoca Dio lo insulta, lo maledice, lo reclama. Alla zia Laura metteva paura quel ricordo, paura ed estasi. Ah, Dio! Le suonava nella sua testa e lei provava vergogna, perché quel suono le procurava un piacere inaudito. Sono un essere orribile, diceva ad alta voce, e si caricava di faccende rumorose. Perché viveva con quel marito fatto di tedio e disciplina? Chi lo sa? Lei non lo sapeva e secondo le sue riflessioni notturne non valeva più la pena di scoprirlo. Sarebbe rimasta lì. Con lui, perché così aveva promesso in chiesa, perché amava i suoi figli e perché così doveva essere. E non era Giovanna d'Arco e non aveva nessuna voglia di essere bruciata viva. Dopotutto, soltanto nei sogni conosceva un luogo migliore di casa sua. E casa sua era casa sua soltanto perché gliela prestava il signore con cui dormiva. Tra i vari problemi di quel matrimonio di convenienza, uno dei peggiori era ricevere elogi in pubblico. Suo marito era un esperto in questo. Poteva passare settimane intere lontano da casa facendo visite ai clienti o a donne più ordinate. Poteva essere a casa e non dire mai una parola, muto dal letto alla sala da pranzo e dalla sala da pranzo all'ufficio. Presiedeva meditabondo alla cena mentre i suoi figli si davano di gomito per chiedersi il sale senza far rumore. Poi se ne andava a giocare a dadi al circolo spagnolo e da lì tornava a puntare la sveglia e infilarsi nel letto, interrompendo il suo mutismo soltanto per borbottare buonanotte. Potevano passare così giorni e giorni senza neppure vedere di che colore fosse il vestito di sua moglie. Ma se doveva esserci una cena di quelle che gli uomini concordano con signora, la considerava attentamente sin da quando lei, con tutta la sua lentezza, cominciava a spazzolarsi i capelli, immaginando una bella pettinatura. La guardava infilarsi una sottoveste di pizzo, scrutare nell'armadio in cerca di un vestito, infilarsi le calze che lui le comprava per farsi perdonare i suoi soggiorni nella capitale, mettersi qualche neo sulle guance, dipingersi le labbra di rosso e le ciglia di blu. La guardava alzarsi sui tacchi di raso scuro e cercarsi fuori nei lobby per mettersi gli orecchini che lui prelevava dalla cassaforte. Infine, terminata la vestizione, Laura lo sentiva dire. Non avrei potuto scegliere meglio. Sei perfetta. Le copriva le spalle con il paletò e la portava sotto braccio fino alla macchina. Durante il tragitto le diceva quanto l'amasse, quanta voglia avesse di fare con lei un viaggio in Italia, che enormi problemi desse la ricchezza, quanto trovasse piacevole la sua compagnia quella sera. Questo non era che l'inizio e la zia si era ormai quasi abituata a sopportarlo pazientemente. Il difficile veniva poi. Essere liberale con i liberali e conservatrice con i conservatori, anticomunista con Don Jaime Villar e filoamericana a casa degli Adame. Tranquilla a casa dei Perez Rivero e attiva a casa degli Uriarte. In qualsiasi caso, suo marito declamava le sue virtù in pubblico e in base alle preferenze della padrona di casa, lei diventava un'eccellente lettrice, una pianista sensibile, una grande pasticcera, una madre piena di abnegazione, una sposa dai modi soavi aristocratici. Suo marito sapeva quale delle sue qualità esaltare in ogni occasione. Non era difficile. La città era dominata da uno spirito pigro e conservatore e la gente che nasceva in un ambiente non veniva quasi mai a sapere quel che accadeva in un altro. Era impossibile che in alcune case si accettasse l'idea dell'educazione laica, così come in altre sarebbe stata considerata una follia parlare male del generale Calles. Una sera furono invitati a cena dai Rodriguez per essere presentati ad alcune persone della diocesi con cui il marito della zia Laura pensava di combinare svariati affari. I signori Rodriguez godevano di gran prestigio presso il signor arcivescovo, il signor vescovo, il prelato domestico di Sua Santità e tutti gli altri investitori mistici lì riuniti. Assistevano alla messa quotidiana nella cattedrale con tutta la famiglia. Avevano 13 figli ed erano disposti a continuare ad avere tutti quelli che Dio, nella sua infinita misericordia, avesse voluto inviare nel fervido grembo della signora Rodriguez, la quale, oltre ad essere una tenace credente, era una madre esemplare che viveva col sorriso sulle labbra tra pannolini, veglie notturne e giaculatorie. Nonostante la fatica di tanti nuovi cristiani, aveva preparato una cena opulenta per i cristiani più importanti. Metteva ogni cura nel baciare gli anelli in bella mostra sulle mani del rappresentante della Santa Madre Chiesa. Ed era di una dolcezza che rasentava l'idiozia, o come pensò la zia, di un'idiozia mascherata da dolcezza, molto tipica della sua specie. La zia Laura sopportò con eroismo la conversazione sulla santità di Sua Santità il Papa e le spiegazioni teologiche che giustificavano la vendita di alcuni terreni e l'acquisto di altri che avrebbero figurato come patrimonio di suo marito, perché il governo, tanto perverso, non gli togliesse la chiesa. La chiesa non poteva possedere nulla senza che il governo non gliele volesse togliere. In cambio di questo favore, che più che altro si doveva considerare un'opera pia, la chiesa avrebbe procurato a suo marito una benedizione papale, tre rosari di petali rosa, una scheggia della croce di Gesù Cristo, un chiodo ispirato ai chiodi sacri e 500 metri quadrati dei 20.000 che sarebbero stati registrati a suo nome. Il coniuge della zia era tanto entusiasta dell'affare che quella sera esagerò le virtù di sua moglie. Con somma pazienza, Laura ascoltò e resoconto delle sue qualità cristiane e una volta o due le fece addirittura piacere scoprire che suo marito si rendeva conto di quanto fosse generosa nei rapporti con gli altri, dell'infinita devozione con la quale prendeva parte alla messa obbligatoria e del tempo che dedicava alle opere di carità. Ma quella che durante la minestra e la carne era stata la descrizione di qualcuno più o meno simile alla zia Laura, arrivati dal dolce di fragole con panna, era diventato il ritratto di una insopportabile bigotta. A sentire suo marito, lei andava a messa due volte al giorno, recitava un rosario alle 5 del mattino e un altro alle 6 del pomeriggio, insegnava catechismo, assisteva a 100 bambini poveri, faceva regolarmente visita a un ospedale o un manicomio. Era diventata la luce di un ospizio per anziani e aveva una devozione tale per il beato Sebastiano di Aparicio che a volte il beato le appariva di notte, quando gli altri dormivano. Il marito se ne accorgeva perché la cucina veniva illuminata dallo splendore celeste di un'aureola e dalla sua camera sentiva la voce del santo benedire la sua sposa. Arrivati a questo punto, il cognac aveva ormai preso possesso dei devoti gargarozzi del vescovo ed erano tutti disposti a lasciarsi abbagliare dalla modestia e dalla devozione della zia Laura. Allora lei, che aveva deciso di sopportare fino in fondo quella tortura, si rifugiò nel dolce come nell'unico nascondiglio possibile. Per sua disgrazia, però, le occupazioni materne dell'anfitriona le avevano impedito di accorgersi che la panna era rancida. Quel sapore disgustoso impedì alla zia di nascondersi. «Ah, Dio!» gridò la zia Laura, sputando le fragole, gettando lontano il cucchiaio e riempendo l'aria con il furore e l'estasi che quel grido le procurava. Donna Sara Rodriguez cadde in ginocchio con gli occhi pieni di lacrime. Perdonala, signore, supplicò affranta. Non ha niente da perdonarmi, chiarì allora la zia Laura, che ormai con la lingua sciolta proseguì con il vocabolario di strada che per tutta la sera aveva dovuto tenere a freno. Senza fermarsi neppure per respirare, crivellò l'elenco delle sue pie qualità e qualificò suo marito, i Rodriguez e i vescovi, con tutti i memorabili aggettivi che l'empio balcone della sua stanza da letto le avevano messo nelle viscere. Uscì quindi di corsa, arrivò a casa e si mise a dormire in quella stanza piena di improperi e di baccano, senza sollevare la testa per 10 ore di oblio. L'unico affare che la diocesi accettò di trattare con il suo sconcertato coniuge furono le dispendiose pratiche per l'annullamento del matrimonio.